Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Benvenuti anche quest'altra puntata di Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon, che ritorna sul processo di Pozzonovo, un procedimento contro i militanti dell'API scatenato dalla Chiesa Cattolica più oltranzista e che vide come epicentro il piccolo paese del Padovano, Pozzonovo, un paese povero, un paese di contadini, che venne investito da questo ciclone con accuse davvero pesanti legate più o meno alla pedopornografia e ai militanti del PC che lavoravano con i ragazzi. Un processo che ebbe una risonanza davvero notevole, che finì con lo smontare il castello d'accuse messo in piedi da un fronte revanchista. Una vicenda ricostruita in diversi appunti di Carlo Pagliarini, dirigente dell'Associazione Pionieri Italiani, appunti inediti che contiamo come CRAP, come Comitato Ricerca e Associazione Pionieri, di pubblicare in un prossimo futuro. Leggiamone qualche stralcio di questo passaggio che riguarda appunto il processo di Pozzonovo. E poi andremo a sentire uno dei bimbi di allora che furono testimoni e che pagarono a caro prezzo il coraggio di dire la verità, Tiziano Merlin. Comunque cominciamo con gli appunti di Carlo Pagliarini. Nel gennaio del 1955 iniziava nelle aule del Tribunale di Padova il processo penale per i fatti di Pozzonovo. Imputati. Sono chiamati in giudizio per rispondere di associazione per delinquere per essersi in Pozzonovo, in epoca imprecisata fra il 50 e il 51, fino all'estate del 1953, associati allo scopo di commettere delitti offensivi del pudore, dell'onore e della libertà sessuale, di atti osceni continuati e per aver determinato, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro, i minori non imputabili, seguono 20 nominativi, di spettacoli osceni per aver dato spettacoli cinematografici aventi carattere di oscenità ed in cui venivano rappresentate ai minori summenzionati scene di baci e amplessi, di atti di libidine violenti, e continuati per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso in concorso fra loro, indotto i summenzionati minori a commettere tra essi gli atti consistenti in baci lascivi, nel far ballare quindi i bambini e le bambine e nel sovrapporre gli uni alle altre di violenza carnale continuate, per aver indotto i minori non imputabili a congiungersi carnalmente, di corruzione di minorenni continuata, per aver dato ai minori gli spettacoli citati, per aver insegnato agli stessi canzoni oscene, di sequestro di persona, per aver inibito l'uscita dal luogo in cui si svolgevano i fatti, di violenza privata, continuata, aggravata, per aver costretto dei minori a denudarsi. L'inchiesta sui fatti era stata promossa e svolta direttamente dal parroco di Pozzonovo Don Cesare Morosinotto, dopo essersi consigliato con il vescovo Bortignon. I miei superiori mi autorizzarono a interrogare di fronte ai genitori i bambini stessi e di raccogliere poi le dichiarazioni in verbali sottoscritti, come ebbe a dichiarare poi il tribunale. Secondo la testimonianza di suor Battistina Giuran, la principale collaboratrice del parroco, nel giugno-luglio del 1953 sentì cantare la canzone dell'api da una bambina che non riuscì però ad identificare subito, ma che poi mi fu detto essere la cugina di Orazio Rossati. Questo infatti mi confermò che questa canzone conteneva parole oscene, ma soggiunse che non lo sapeva tutta. A mia domanda mi disse che frequentava la scuola dell'api e poi aggiunse spontaneamente che gli insegnavano a bestemmiare Dio e la Madonna, a rompere i vetri e i motori, a dire che il Papa e i preti sono briganti e sarebbero stati bruciati in un bosco. Aggiunse anche che gli insegnavano a ballare e a far brutte cose tra bimbe e bambine più grandicelli. Dal luglio al novembre del 53 vennero raccolte dal parroco e dalla suora testimonianze. Il maresciallo dei carabinieri, venuto a conoscenza dell'anomala situazione, aveva dato avvio ad indagini dirette per verificare la sussistenza o meno dei reati compiuti nella sezione del PC. Le indagini davano esito negativo, non era possibile accertare nulla di concreto. Il maresciallo addiveniva comunque all'identificazione dei ragazzi interrogati dal parroco di Pozzonovo, i bambini in età compresa tra i 7 e i 14 anni. La documentazione allestita dal parroco veniva rilanciata nella difesa del popolo del 4 ottobre del 1953, direttamente dal vescovo, attraverso una pastorale predicata in tutte le diocesi. Il vescovo denuncia con spaventosa documentazione le infami attività dell'Associazione Pionieri d'Italia per dissacrare l'infanzia, piano infernale dell'API. L'API ha lo scopo di creare candidati per conquistare dei rivoluzionari, dei senza Dio. Tattica diabolica, fango, bestemmie e calunnia. I bambini che frequentavano l'API andavano anche in parrocchia, come risultò dal dibattimento processuale. Le loro testimonianze furono raccolte in quegli ambienti, a seguito di pressioni, poi esplicitate. Durante il dibattimento processuale, molte bambine furono sottoposte a visita ginecologica, ma nulla risultò a suffragio delle accuse. Il 28 gennaio 1955, in un clima di grande tensione, venne emessa la sentenza assolutoria con formula piena. Il processo fu seguito da tutta la stampa nazionale, si riflesse su quella internazionale e creò un clima generale tesissimo. La partita non era chiusa con la sentenza assolutoria. Il pubblico ministero caparbio, irriducibile, colpevolista, ricorreva in appello a Venezia, dove gli imputati vennero nuovamente assolti, ma con formula dubitativa. I giudici veneziani attribuirono valore giuridico alle testimonianze raccolte da Don Morosini. Sta alla base, così si legge nella motivazione della sentenza, un'inchiesta da parte delle autorità ecclesiastiche condotta in assoluta buona fede e con la dovuta cautela, idonea a costituire grave elemento probatorio dei fatti che si ascrivono agli imputati, fatti che nulla autorizzano a ritenere espressione fantasiosa di una suggestione collettiva. Come fa a osservare Andrea Colasio, questo era un punto controverso. Infatti, verificata la non sussistenza dei reati, i religiosi di Pozzonovo avrebbero dovuto essere chiamati a rispondere del reato di calunnia. Nella sentenza del Tribunale di Padova, per ovviare a questo problema, si era spiegato il comportamento dei religiosi come determinato da suggestione collettiva. Si trattava cioè di atti derivati dai tempi, dalla divisione in blocchi contrapposti, da posizioni ideologiche rigide. I religiosi, aveva affermato la difesa, erano in qualche modo strumenti e vittime di un clima più generale. Pozzonovo resta una pagina buia, una testimonianza drammatica degli anni 50, un segno del fanatismo scaturito dall'idea che l'altro è il nemico, è il male e che contro il male tutto è lecito. E quando muoio io non voglio preti, non voglio preti e frati, né pater nostri. Non voglio preti e frati, né pater nostri. La voglio la bandiera dei socialisti. E la rigira la sempre arditi. Evviva i socialisti e abbasso i gesuiti. E la rigira la sempre arditi. Evviva i socialisti e abbasso i gesuiti. Hanno arrestato tutti i socialisti. L'arresto fu ordinato dai ministri, l'arresto fu ordinato dai ministri. E questi sono i veri, i camorristi. E la rigira e mai la sbaglia. Evviva i socialisti e abbasso la sbirraglia. E la rigira e mai la sbaglia. Evviva i socialisti e abbasso la sbirraglia. Fin qui la documentazione di Carlo Pagliarini, in questi documenti inediti che rievocano il processo di Pozzonovo nella sua brutalità. Ma noi siamo andati a sentire un bambino di allora, Tiziano Merlin, che poi è diventato anche storico, e che così descrive questa realtà del Basso Polesine. Ci fa capire davvero cosa significa vivere in un paese povero, contadino, sotto le angherie di un parroco assatanato. Il processo comincia nel gennaio del 1955, poi c'è il secondo processo a Venezia, sempre nel 1955. Per il primo processo di Padova gli imputati sono stati prosciolti perché dice la sentenza che infatti non c'erano e quindi neanche i reati, no? E quindi c'è stata assoluzione piena. Nel secondo processo d'appello c'è stata l'assoluzione per mancanza di prove. In realtà io poi sono stato amico degli avvocati comunisti, eccetera, cosa hanno fatto? Non si poteva vincere, perché vincere significava umiliare la Chiesa, e quindi in qualche modo si è trovata questa soluzione. Cioè, dice Venezia, non ci sono prove sufficienti che ci siano stati i fatti. Secondo, non ci sono prove sufficienti per dire che gli imputati non sono colpevoli. Quindi insufficienza, ecco, di prove, non è stata una sorta di assoluzione. Guardi, le posso dire, allora, c'è un libro di Naccarato che è uscito una decina di anni fa e l'abbiamo presentato a Pozzo Nuovo con Monsignor Joss, e Monsignor Joss ha chiesto scusa a nome della Chiesa e ha abbracciato una degli imputati. Siamo, e per me è stata una grossa soddisfazione. Tempi recenti, quindi. Però la lotta ai pionieri comincia già nel 50 in paese. L'associazione nasce, mi pare, nel settembre del 49, settembre-ottobre del 49, in Emilia Romagna, con Pagliarini e con anche Berlinguer, mi pare che sia così. E però nel Veneto non è mai nata sostanzialmente. Non c'erano le condizioni. Su questo punto io ho avuto una grossa discussione con Pagliarini. Nel 1980, in un convegno che avete fatto successivamente proprio sui fatti di Pozzo Nuovo. Sì, l'abbiamo avuta non ufficialmente, fuori dalle sedi ufficiali abbiamo discusso. La mia opinione era questa. Da un punto di vista astratto era giusto dare la possibilità alle famiglie che non erano religiose, non erano cattolici, di avere per i figli una educazione laica. Però il ragionamento che doveva essere stato fatto ai tempi era questo. Le sinistre hanno il 30% dei voti, ci sono il 30% delle famiglie che sono disposte a educare in modo diverso i propri figli. E qui è stato un errore madornale, perché i comunisti, io li conosco bene, i comunisti possono, io sono dai 42, conosco bene i braccianti, erano comunisti perché volevano pane e lavoro, non perché fossero contro la Chiesa. E a quel punto lì il parroco del paese ha, per così dire, ricattato i comunisti. Se voi votate comunista, se voi rimanete comunisti, io vi tolgo la Chiesa. La faccenda è questa, che i comunisti erano cattolici, ho fatto la cresima nel 50, come dire, odoravo d'incenso, la confessione, verso i tardi, perché se no la domenica mattina avevo già fatto il primo peccatuccio, e non poteva funzionare perché non c'erano le condizioni. Le famiglie comuniste non volevano la Chiesa era, rappresentavano il credo dei genitori, dei nonni, eccetera, e quindi i preti, ma anche Pio XII, hanno ricattato i comunisti. E questo lei lo disse a Pagliarini. Non poteva funzionare, forse ha funzionato qualcosa in Emilia, ma non poteva funzionare nel Veneto, perché i comunisti non erano atei. Ecco, io la domenica successiva all'assoluzione, al processo di Padova, avevo 12 anni e mezzo, facevo la terza media, sono andato in chiesa, in mezzo alla chiesa, perché adesso mi sono reso conto perché l'ho fatto, perché la chiesa era mia. Mi ho preso per un'ora, i preti mi hanno detto tutti i colori, senza fare il nome, tutti mi guardavano. Io l'ho aspettato fuori e volevo prendere la pedate, siccome era grande e grosso, mi ha innalzato, gli ho sputato in faccia e mi ha buttato fuori dal canone. Dio del cielo, se mi vorrai, in mezzo agli altri uomini mi cercherai. Dio del cielo, se mi cercherai, nei campi di Gran Turco mi troverai. Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Oh Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Perché anche nel cielo non mi voglio rubare, ma un attimo di gioia me lo puoi regalare. Perché anche nel cielo non ti voglio rubare, ma un attimo di gioia me lo puoi regalare. Oh Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Oh Dio, scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Senza di me non so più dove andare, come una mosca cieca che non sa più volare. Senza di me non so più dove andare, come una mosca cieca che non sa più volare. Oh Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a salvare. Oh Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a salvare. Noi qui sulla terra non lo abbiamo diviso. Noi qui sulla terra non lo abbiamo diviso. Scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Come è stato coinvolto nel processo? Perché lei era molto giovane e non era un pioniere. Ma non c'erano i pionieri, non c'era l'associazione dei pionieri a Pozzanova. Ah, quindi, non si trattava dei pionieri, ma si trattava... La sezione di Pozzanova, sì, era una delle più forti della provincia di Padova. E la provincia di Padova era bianca. Ci sono state due grossi lotte bracciantili tra il 48 e il 50. Dirette da parte democristiana dal parroco locale, sono concluse con una sconfitta. Nel 50, quindi a partire dal maggio del 50, i capi comunisti della sezione furono costretti ad emigrare. Dopo di loro emigrarono le famiglie dei braccianti che si erano più esposti. E poi chi è rimasto, cosa ha fatto? Ha ricorso all'immigrazione temporanea. Temporanea vuol dire 8 mesi in Francia a lavorare le barbabietole. Che la sezione, che era fortissima, fino al 50, fino a che non c'è stata la, si è improvvisamente svuotata. Non c'erano più i capi, non c'era più la massa di manovra ed è rimasta quella parte della popolazione che io chiamo il sottoproletariato. Magari quello che aveva il vizio di bere, quello che era ammalato, quello che non è, comunque non era in condizione di andare a lavorare in Francia. Quindi il partito a Pozzanova era, la sezione comunista era stata distrutta già nel 50 con la sconfitta di due grossi scioperi ed è rimasta in mano al sottoproletariato, a povera gente. Negli anni precedenti la sezione di Pozzanova era quella che si distingueva per numero di tessere, per giornali venduti e così via. A partire dal 50 in poi arrivavano le tessere e non si davano via. Arrivavano i giornali e non si vendevano. Mi ricordo che sono arrivati i giornaletti dei pionieri e siccome la sezione era in una piazzetta che era l'unico posto dove si poteva giocare, noi bambini, figli di democristiani, figli di comunisti o figli di socialisti, eravamo dentro e fuori alla sezione, ma non c'è mai stata una sezione di pionieri, non c'era la cultura sufficiente. Mai c'è stato questa sorta di accanimento contro questa, peraltro, appunto, sezione anche abbastanza innocua in definitiva. Il parroco del paese, quello vecchio, che c'è stato fino al 50-51, non faceva politica. Per questo il vescovo di Padova nel gennaio-febbraio del 48 ha mandato un cappellano particolarmente anticomunista, che era Don Cesare Morosinotto. Questo divenne in sostanza il segretario dei sindacati. Sindacato libero. Dal 51 in poi è diventato praticamente il sindaco, addirittura il farmacista. Ti dico in che senso. A quei tempi il comune pagava le medicine per i poveri, ma non aveva più soldi, per cui il farmacista, quando arrivavano le ricette, non dava le medicine. Allora cosa ha fatto il prete? Si è fatto dare al comune 100.000 lire per mettere a posto il campanile. E invece di fare il campanile, quei soldi li ha spesi per acquistare le medicine. Quindi i poveri dovevano andare dal prete a chiedere se per favore gli davano le medicine. Era diventato anche farmacista. Quando c'è stata la sconfitta del 50, c'era ancora una sezione dei giovani comunisti che erano i figli dei braccianti che erano in galera perché erano stati imprigionati oppure denunciati durante gli scioperi. E quindi questi giovani ce l'avevano a comprare e quando il prete passava cantava bandiera rossa. Le dico, ecco un altro episodio di me bambino. Io ho finito la quinta elementare, avevo 10 anni, perché ero andato a scuola un anno prima. Ero bravo a scuola, però anch'io ero birichino. Ogni tanto la maestra mi cacciava fuori dalla porta. Se a mio avviso mi aveva mandato fuori perché avevo fatto qualcosa che non dovevo, tacevo. E se non sa cosa facevo, andavo le pedate alla porta e cantavo bandiera rossa. Cioè bandiera rossa era diventata per noi bambini come la canzone della ribellione contro l'ingiustizia. Popolo alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Avanti o popolo alla riscossa, bandiera rossa trionferà. Bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà. Al mare, scuola e miniera, all'officina chi soffre spera, sia pronto è l'ora della riscossa, bandiera rossa trionferà, bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà. E questo c'è stato. Ci sono stati quasi 300 denunciati in paese. Poi c'è qualcosa di molto più serio. Quando questo prete è arrivato, se li metteva sulle ginocchia, e poi prendeva la mano e faceva in modo che la mano del bambino andasse a toccarlo. Queste sono cose che sono venute fuori dopo e in vescovado lo sapevano. Tendeva a molestare i bambini poi alla fine, questo era il discorso. E quindi... Sì. No, ma non erano bambini, erano tutti ragazzini che avevano 14-15 anni. La chiesa padovana, il vescovo, non voleva il processo, voleva fare come facevano i vescovi emiliani, che fin dal 49 hanno cominciato, senza fare nomi naturalmente, a dire l'educazione dei pionieri rovinava la gioventù e lo faceva apposta per preparare questi giovani a diventare i perfetti comunisti. Qua, a un certo punto, cosa è capitato? Che il vescovo ordina al prete di chiamare dei bambini e di farli firmare che hanno fatto queste orge. Quando il maresciallo dei carabinieri ha sentito questo, si è arrabbiato, perché se qualcuno ha notizie di reato, cosa deve fare? Deve andare dai carabinieri e soprattutto non può interrogare i bambini, non può neanche un giudice. I bambini devono essere interrogati davanti a uno psicologo. E soprattutto non da un prete che è convinto che ci sia la colpevolezza. A quel punto cosa fa il maresciallo che stava tornando dalle ferie? Chiama lui i bambini. A quel punto lì il vescovo ha parlato con i superiori del maresciallo facendo capire che è bene chiudere tutto lì. Il maresciallo, quando ha interrogato i bambini, sapeva già che comunque avrebbe dovuto dire che non c'è stato niente. Poi però per 2 mesi il martellamento continuo che c'era nella difesa del popolo, che era nel giornale cattolico padovano, invece in paese il prete continua. E allora continuando, a un certo punto si comincia, parla, ma se hai il coraggio, fai i nomi e così via, viene fatto un nome, a quel punto lì, quei nomi si è costretti ad andare avanti e si fa il processo. E allora bisognava vincere, diceva il vescovo, e ha fatto di tutto per vincere. Quindi al processo lei fu coinvolto in che modo personale, cioè come bambino? Perché mi hanno chiamato. A testimoniare? A testimoniare, sì. a testimoniare su che cosa si faceva, diciamo, dentro questa sì, scuola. Sì, ma io ero già stato interrogato nel 53 da un giudice e mi ricordo quando sono andato, sapevo perché eravamo interrogati da questo un giudice e siccome tutti i bambini del mondo avevano giocato a dottori e c'erano state chiamate anche due bambine con le quali avevo giocato. E allora ho pensato adesso cosa, vado con mio papà, vado a farmi interrogare. Se dico che ho giocato a dottori, quello che mi trovo dice che le brutte cose le ho fatte con i comunisti. Allora non dico niente. Infatti sono andato a farmi interrogare e ho detto che io non so niente, non so cosa siano le brutte cose, certo invece le sapevo. E poi sono tornato a casa in Corriera. Avevo tanta paura che mi è venuta la febbre a 40 e mi ricordo che sognavo mio padre e sognavo la prigione. L'esperienza incredibilmente drammatica, diciamo molto sconvolgente, non solo per lei ma anche tutti gli altri bambini, ragazzi che furono coinvolti, no? Io ero uno dei pochi che studiavano. Andavo a Monselice tutte le mattine, facevo 7-15 chilometri e andavo a scuola. Per quello che ho passato in terza media a scuola, ne ho passato, avevamo vinto in paese. Fra noi comunisti, quando siamo tornati dal processo, avevamo 20 e io sono andato a prendermi la chiesa, perché quella era mia e dei miei genitori, non era più del prete se noi eravamo 20. Ma quando sono andato a scuola mi sono accorto che non era così. Io ero il bambino che faceva le orge con gli altri bambini. Quindi è continuata questa sorta di infanzia? Per tutta la terza media. A 18 anni, io a 17 anni ero maestro. Io a 18 sono andato a presentarmi alla direzione didattica per avere delle supplenze. Sa cosa mi ha detto il direttore quando mi sono presentato? Guardi, per il bene dei miei ragazzi mi auguro che lei non abbia mai una supplenza. Però si ricordi, se ha una supplenza deve dire le preghiere all'inizio e alla fine. E io ho risposto sì. E lui mi ha detto sì signore, io ho risposto sì. E lui ancora sì signore, e io ancora sì. Sì, questa esperienza è stata assegnata non solo lei, anche gli altri per un sacco di tempo, quindi è rimasta come una sorta di macchia e lei ha avuto anche difficoltà. Ho fatto per 2 anni il maestro. Io a 20 anni sono andato a fare il professore. Non c'erano professori a sufficienza in quegli anni là, in Basso Polesine. Ma nell'estate, fra giugno e settembre, nel mio paese c'era la scuola media da un anno. Il patronato scolastico aveva deciso di fare le ripetizioni gratis per i bambini che erano stati rimandati. Ci fu una riunione. La prece, quando qualcuno ha fatto il mio nome, ha detto che lei non darà mai i suoi bambini a un sovversivo come Merlin. Io sono venuto a sapere, sono andato a trovarla e lei mi ha detto che può dire quello che vuole. E quindi poi sono andato a protestare ai provveditorati. E questo qua vedo, guarda, lei è bravo, ha un bel libretto, e non si rovina, e lasci stare, eccetera, eccetera. Quell'anno là, quando sono andato in Basso Polesine, avevo fatto 20 domande in tutta la Bassa Padovana per avere un posto. Gli altri studenti, i rari studenti da Bassa, l'hanno trovato, veramente. Io l'ho trovato solo giù a Calzuliani, che era nell'ultimo posto del Basso Polesine. She once had me. She showed me her room. Isn't it good? Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on the. Per questa settimana è tutto, quindi l'appuntamento alla prossima puntata, ricordando che per ascoltare questa trasmissione in podcast l'indirizzo online è www.radiocittafugico.it oppure www.ilpioniere.org. Ciao a tutti.